sì, facili, irritante ipocrisia, luci ed ombre che tu proietti sulla vita mia. Perché tu sei così, non conosci i limiti, dominare il mondo vuoi, quanto ancora ne vorrai. Avere te è quello che ogni uomo vuol per sé, questo se tu mi vuoi, doppio inganno se ci stai. Ma chi sei se ci sei, verso chi tu correrai, quando il mondo ormai da te vorrà tutto ciò che hai. Così sfiniti nuovamente in strada a noi, verso nuove realtà che la vita ci offrirà.